Sexta, viaggio nel nuovo contesto digitale di Pepe Moder. Anche per Radio Next è finalmente arrivata la fase 3 del lockdown. Siamo ritornati a trasmettere dagli studi di Radio 24 in Viale Monterosa 91 a Milano e oggi lo facciamo con due ospiti. Oggi parleremo con il fondatore di Jellyfy, che è Fabio Nalucci, a cui do il benvenuto. Buongiorno Fabio. Buongiorno. E con Andrea Craviotto, che è il responsabile dei Financial Services, nuova business unit sempre di Jellyfy. Buongiorno Andrea. Buongiorno. Parliamo oggi del mondo B2B e parliamo di una realtà, Jellyfy, che sempre più come dire, è importante o quantomeno prende spazio all'interno del mercato, dell'accelerazione delle imprese. Fabio, ci racconti in breve come è nata Jellyfy e quali sono i purpose della tua azienda? Certo, volentieri. Jellyfy nasce da una necessità di mercato, cioè dalla volontà di finanziare startup software B2B, dopo magari spieghiamo perché questo sì. Taglio, no, questo corner di investimento, finanziarle, ma non limitarsi a finanziare, ma aiutarle nel percorso di crescita, usando un paradigma diverso da quello tradizionale, conosciuto, nato in Silicon Valley, sì, con l'accelerazione, l'incubazione, ma cercando di mettersi di fianco alle startup con una modalità molto industriale. Cioè, venendo noi dal mondo B2B, avendo fatto, come dire, il percorso di carriera vendendo prodotti e servizi alle grandi aziende, alla PMI, abbiamo capito che per finanziare startup di tipo software che aiutano le aziende a migliorare i propri processi, i propri prodotti, i modelli di business, era necessario iniettare capitale e mettersi di fianco a loro nel percorso. Così abbiamo creato questo nuovo concetto che abbiamo chiamato gellificazione, che fa il parallelo tra gli stati della materia, no? Dall'aria, quando hai solo un'idea ma non hai il contenuto, il prodotto, il software, il codice sorgente e così via, fino a creare un'azienda solida, passando attraverso lo stadio liquido, gel e appunto il solido finale. E questo percorso, che abbiamo così battezzato gellificazione, in realtà va a lavorare su quelli che sono i processi aziendali, tagliando quella che è la curva di apprendimento che una startup altrimenti dovrebbe fare da sola, visto che i modelli B2B sono molto più codificati e standard di quanto non siano quelli B2C, dove c'è il tema della viralità che non è comandabile, no? Se fosse comandabile la viralità, tutte le iniziative B2C sarebbero degli unicorni, no? Invece sappiamo che non è così. Certo, ahimè non è così. No, esatto. Senti, ma voi vi definite un ecosistema integrato. Che cosa significa esattamente? Ecco, guarda, quella è la nostra vision ultima, no? Cioè riuscire a far lavorare le startup B2B con le corporate. Perché il sistema integrato, perché fare questa funzione di ponte tra i due sistemi, perché le corporate hanno sempre più bisogno di innovare, ribadisco, i propri processi ma anche i propri prodotti, facendo riferimento non solo ai propri repartimenti di R&D ma anche comprando tecnologia e contenuti dall'esterno, quello che adesso si chiama open innovation. Sì. Però per farlo, sai, quando sei una grande corporation magari hai dei processi rigidi, burocratici, e lo stesso corporate culture, i modi con cui hai di lavorare non sono, come dire, propri, non certo, esatto, delle startup. Noi facciamo la sorta di camera di compensazione, quindi siamo ormai, ahimè, sia io che Andrea che altre parti del team, un pochino più age, perché non siamo più definibili dei giovanotti startup, però abbiamo fatto quel percorso, sì, l'abbiamo fatto più volte con discreto successo, e quindi riteniamo di avere questo quid in più per far parlare i due mondi. Okay. E quindi facciamo lavorare le startup nei contesti delle grandi corporation. Come? Non è solo un tema di cultura, è anche un tema che quando sei in un'azienda appena nata non sai come gestire un progetto magari di 12 mesi con una corporation da 20 billion. Certo. Ti mancano proprio, no, le competenze e la cultura. Magari il tuo prodotto è meraviglioso. E anche la difficoltà di riuscire a parlare con loro, di riuscire a integrarsi in processi iperstrutturati e come dire, molto poco liquidi. Assolutamente. Un esempio, il più sciocco, la qualificazione a largo fornitori di una startup è pressoché impossibile, perché le grandi corporation chiedono 3 anni di bilanci. Certo. E questo non è fattibile, quindi già noi lì operiamo, e questa è veramente la punta dell'iceberg, è la sciocchezza per spiegare alcune difficoltà, lavoriamo come main contractor in modo tale da eliminare questo problema. Ma poi fino al come si gestisce un kick-off meeting di un progetto complesso, al come si fa il PMO e quindi la gestione progettuale su cantieri molto, molto articolati, dove ci sono più controparti e così via. Sì. E anche il posizionamento, certo. Riuscire a sfondare la porta. Ecco. Certo, senti, ma i processi di decisionali normalmente delle startup sono super rapidi, sono come dire, orizzontali e molto demanding in termini di assunzione di responsabilità, che è esattamente il contrario di quello che accade nelle grandi corporation. Come si fa a mettere d'accordo queste due culture? Ecco, questa è un'ottima domanda, perché mi consente di dire che in effetti sono due elementi che difficilmente si parlano. Ah, e anche certo. Lì noi fungiamo da demultiplica, cioè capita spesso che noi firmiamo liability contrattuali che altrimenti la startup non riuscirebbe a firmare, mm-hmm. e ci come dire, frapponiamo tra i due sistemi e consentiamo alla startup di rimanere sufficientemente agile, snella e fare quello che è il suo percorso naturale, e garantiamo noi la corporate su certe tematiche che altrimenti proibirebbero di fare il contratto, no? E quindi noi diventiamo di nuovo un abilitatore di questo percorso. Lavoriamo sia su quelle che sono componenti più hard, le definirei, perché sono barriere incontrastabili della burocrazia delle grandi corporate, e su temi più soft che invece sono riuscire a raggiungere magari il C-level della corporate, certo. Che sarebbe preclusa alla startup, e con cui noi magari riusciamo a parlare e a spiegargli il valore intimo della tecnologia che hanno sviluppato. Quindi lavoriamo su queste due dimensioni. Ok, ho visto che voi investite prevalentemente in società tecnologiche, in startup tecnologiche. Mi è balzata all'occhio però anche il fatto che voi investite in piccole e medie imprese già esistenti, magari anche con un trascorso di storia aziendale. Siete aperti solo al mondo tecnologico o prendete in considerazione anche altri mercati, logistica, piuttosto che il customer service o attività di business, quindi CRM e via dicendo? Noi prendiamo in considerazione tutti i settori del digitale B2B che abbiano un modello di business a canoni ricorrenti, per noi questa è il faro. La condizione sine qua non. È la condizione qua non, e anzi abbiamo un filone di investimento che chiamiamo other application, quindi sia tecnologia, AI, blockchain, sì. Cyber, ok, ma anche other application che sono applicazioni verticali di business che risolvono use case specifici, citavi il CRM, la logistica, cioè prendiamo in considerazione quelle che sono soluzioni funzionali a problemi di business delle mm-hmm. grandi corp, mm-hmm. e in questo modo riusciamo anche a investire in tecnologie che proprio perché sono, no, use case che si sono costruiti nel tempo, magari sono società che hanno già 4-5 anni di vita e hanno testato sui loro clienti che quel modo di risolvere un problema funziona, e magari hanno anche già 4-5 milioni di euro di fatturato, quindi non facciamo solo startup. Quindi scusami, però ci stiamo dicendo che non investite su aziende che sono ancora sulla carta, cioè devono essere già partite, devono avere già almeno uno storico del modello di business che incomincia a girare. Il 10% dei nostri investimenti va sul puro seed, che è idea su PowerPoint, no? Okay. Il 10% lo facciamo, okay. Il resto è su aziende che abbiano almeno 250.000 euro di fatturato. Perfetto. Tra l'altro volevo dire ai nostri ascoltatori che avete organizzato un interessantissimo webinar sulla realtà virtuale il 16 luglio 2020. Potete andare sul sito di jellyfy.com e iscrivervi. È gratuito, immagino, Fabio, giusto? Assolutamente. Ok, senti, tra le vostre aziende che state, lasciami dire, incubando, anche se non è il termine corretto, e adesso ci arriveremo, qualche segnalazione di punta di diamante da prendere, come dire, da mettere un attimino sotto la lente o da tenere sott'occhio? Guarda, ci sono due tipologie di punte di diamante. Ci sono quelle fortemente tecnologiche, dove veramente l'algoritmo, cito Cyberdyne, è in grado di migliorare e ottimizzare i processi aziendali, e stiamo facendo dei progetti con grandissime corporation, e dove misuri il vantaggio in termini di costi che ti porta l'algoritmo di intelligenza mm-hmm. artificiale. E quella è sicuramente una startup su cui abbiamo molto creduto e che sta crescendo in maniera molto significativa. Ci sono invece altre che sono delle soluzioni di business, quelle other application che citavamo prima, sì. Tipo Upround, che si sono conquistati clienti enormi come Vodafone, per esempio, mm-hmm. ma anche il Magic Quadrant di Gartner, che nel mondo delle tecnologie è un po' come vincere le Olimpiadi, no? Chiaro. Sei, no, sul tetto del cielo, quindi abbiamo questi sono due nomi tra le tante che sono presenti molto bene. In che cosa vi differenziate rispetto agli incubatori, agli acceleratori e ai tradizionali venture capital? Sul fronte delle operation e quindi del come aiutiamo le startup, l'acceleratore ha un programma che parte a marzo e finisce a giugno, dico dato sì. caso, quindi è un periodo limitato nel tempo dove ci sono dei corsi d'aula in cui si insegnano alle startup più o meno tutte le stesse cose. Sì. Noi non abbiamo un programma periodico, noi quando investiamo andiamo a fare una due diligence molto impegnativa, che non è quella finance legal, ma è sui contenuti, sui processi, sulla strategia, sul marketing e così via, e a valle, se riteniamo che ci siano dei gap rispetto a quello che è il nostro livello, il benchmark, no, di ottimo, andiamo a proporre alla startup degli interventi puntuali, quindi mm-hmm. andremo a lavorare sull'R&D in questo modo, sul marketing in questo modo, quindi ogni programma di gelificazione è a sé stante. Okay. Con alcune non abbiamo fatto nulla perché abbiamo detto ragazzi siete al top, andate e fate di neri, con altre abbiamo dovuto introdurre dei correttivi, ma questo ci consente di investire in modo più sapiente e diminuendo il rischio. Questa è la differenza rispetto all'acceleratore e incubatore. Rispetto ai VC è collegato a quello che ho appena detto, perché il VC teoricamente dovrebbe investire sull'idea perfetta e il team perfetto. Il problema è che sono due combinazioni che magari in Silicon Valley accadono con una certa frequenza, da noi un po' meno. limiti molto lo scopo di investimento, perché rischi di trovarti con poche occasioni dove c'è la combinazione di questi due elementi magici. E allora interveniamo in modo tale da ampliare il numero di aziende investibili e a colmare quei gap in modo tale che comunque il rendimento ci sia. L'altra grande differenza rispetto ai VC tradizionali è che il VC tradizionale lavora col paradigma 95-5, di 100 investimenti 95 muoiono, però 5 diventeranno o dei dragon o mm-hmm. degli unicorni. Mm-hmm. Noi lavoriamo al contrario, noi diciamo di 100 investimenti ne saliranno 5, ma 95 saranno delle imprese di successo, mm-hmm. Non a livello di unicorni, ma su cui faremo dei moltiplicatori molto interessanti. Questo aiuta tra l'altro la crescita dell'economia, mm-hmm. perché per un unicorno fantastico, siamo tutti molto felici, ma così noi avremo tante imprese di successo che andranno a mercato, che avranno posti di lavoro e consentiranno la crescita complessiva dell'economia. Fabio, qual è l'orizzonte temporale della vostra presenza e collaborazione con le startup? Tendenzialmente crediamo che 3 anni di percorso assieme, considerando che un percorso industriale fortemente connesso, siano il percorso giusto. Uh-huh. Abbiamo quindi questo orizzonte tra l'investimento e il disinvestimento. A oggi ti posso dire che la media delle exit che abbiamo fatto è un pochino più corta, nel senso che siamo usciti un pochino prima, con numeri tra l'altro molto significativi, però il target è 36 mesi. Ok, senti, gli acquirenti chi sono? Sono imprese o sono investitori? Beh, questo è molto interessante perché 10 anni fa ti avrei detto i compratori di tecnologie e software sono a loro volta dei vendor di sì. software, quindi IBM, SAP, per citare i nomi più grandi. Certo. Oggi posso dire che in effetti il mercato è ampiamente cambiato perché esiste il secondario, quindi VC o private equity che entrano successivamente a noi mm-hmm. e comprano le nostre quote, ma soprattutto, e questa è la grande novità degli ultimi, se vuoi, 4-5 anni, più probabilmente nelle economie più mature, da noi sta arrivando adesso, sono le stesse corporate che tramite quei percorsi di open innovation che citavo prima hanno iniziato a comprare tecnologie e società che affiancano ai loro modelli di business tradizionali, o perché li abilitano e quindi sono degli abilitatori di parti di processo, mm-hmm. o perché diventano proprio dei business paralleli, a volte anche scollegati dall'oggetto sociale, no, ultimo della corporate. Quindi questa è una grande novità che aumenta decisamente le possibilità di exit per questo tipo di tecnologie. E allora voglio chiedere ad Andrea Craviotto qual è l'obiettivo della nuova business unit legata al mondo fintech, quindi financial services, che si discosta un po' invece da quello tradizionale più delle operations, più del manufacturing. Andrea. Sì, allora, Jellyfy in realtà ha già a portafoglio varie aziende che ricadono nel grandissimo mondo del fintech, che possiamo sintetizzare così, e soprattutto il fintech B2B, quindi di soluzioni software per banche e assicurazioni. Mm-hmm. Quindi abbiamo già delle società che sviluppano modelli di analytics per gli investimenti, come ThinkScience, aziende sulla parte di wealth management, sì, come WeWealth. Fabio ha citato Blockchain, quindi un'azienda che fa firma digitale, blockchain, smart contract come Citale, mm-hmm. Ocam fa custody delle crypto asset e digital asset. Quindi diciamo, non partiamo da zero, quindi c'è già un'ampia gamma di investimenti e di società che hanno una grande attinenza al mondo finanziario. Poi ci sono anche c'è un interessante collegamento con anche le aziende che operano nel manufacturing, quindi l'industry 4.0, supply chain financing, perché sono soprattutto per le banche nel settore corporate imprese un'interessante opportunità di integrarsi meglio, lavorare meglio con le imprese, aiutandole a digitalizzare e aiutandole a poi interagire anche col mondo della finanza per la parte del credito e i pagamenti. Quindi questo è un po' il mondo da cui parte Jellyfy, e che ovviamente nei prossimi mesi si espanderà con, diciamo, l'espansione degli investimenti di Jellyfy. Da un punto di vista di supporto diciamo ai clienti poi B2B, quindi tendenzialmente alle banche e alle assicurazioni, noi ci poniamo l'obiettivo, già lavoriamo con alcune di queste, quindi poniamo l'obiettivo di supportarle ad accelerare il processo dell'innovazione, tendenzialmente su tre aree. La prima che ha citato anche Fabio è quella di aiutare proprio nel processo e nel mettere in piedi un processo di gestione dell'innovazione, sul tema della formazione, sul tema del creare meccanismi di community e lavorare meglio comunque nella fase di screening delle start-up. Poi più operativamente, nelle attività più operative, noi abbiamo un concetto di digital factory, quindi mm-hmm. diciamo tutto l'insieme delle competenze di Jellyfy, che vanno dagli analytics alla parte di user interaction, sulle architetture, quindi di supporto anche operativo, che sappiamo è molto complesso nel mondo dei financial services, comunque di sviluppare delle progettualità, quindi inserire delle novità o lanciare anche delle nuove iniziative di business in questo mondo, avendo anche non solo le startup, ma soprattutto il ruolo di Jellyfy come aggregatore, come acceleratore di un programma di trasformazione. Andrea, scusami, però tu sarai responsabile di un'area, di una business unit, il cui mercati sono particolarmente burocratizzati e particolarmente restii all'innovazione, a differenza del manufacturing, che anche in Italia, come secondo paese dopo la Germania, è sempre stato all'avanguardia, quantomeno nel B2B, nello sviluppo di innovazione sul mondo B2B. Come pensate di convincere i vostri grandi interlocutori sul mercato, banche, assicurazioni, a salire a bordo e a investire credendoci in queste startup? Ma guarda, io non penso che le banche e le assicurazioni siano restie di per sé, anzi al contrario, penso che abbiano una grandissima cognizione, consapevolezza che l'innovazione e il cambiamento sarà necessario e fondamentale per la sopravvivenza e per inventare nuovi modelli di business. La grossissima difficoltà che di solito hanno è la difficoltà del cambiamento, ma per mille anche giusti motivi. Mm-hmm. Uno, per anche l'aspetto regolamentare, normativo, che frena molto spesso perché è molto demanding. Quindi io penso che, e credo molto, che il modello proprio di posizionamento di Jellyfy possa essere proprio una degli elementi acceleranti in questo settore, proprio per le cose che abbiamo detto anche prima, quindi diciamo fare un po' da camera di compensazione per fare da, diciamo, tra la startup che ha una competenza interessante ma magari non ha la capacità di affrontare quelle complessità progettuali e di infrastruttura che sono delle volte soverchianti, sì, con il mondo bancario e assicurativo, e dall'altro aiutare i nostri clienti corporate che sono abituati a certi tipi di processi, diciamo, a riuscire a procedere in modo snello. Quindi io penso che sia veramente vincente questo posizionamento. Ovviamente dobbiamo lavorare di più, dobbiamo crescere, però io già dai primi feedback che osservo di un mercato ho capito che è molto ben visto questo posizionamento e ci saranno sicuramente dei risultati interessanti. Molto bene Andrea, grazie mille. Allora siamo giunti alla fine della nostra puntata, ringraziamo a questo punto i nostri ospiti, Andrea Craviotto, responsabile dei Financial Services di Gelify, e l'amministratore delegato, il CEO di Gelify, Fabio Nalucci, ai quali chiedo di salutare. Ma Fabio, un'ultima domanda per te, proprio un botto e risposta: se avessi una bella idea da presentare, come faccio ad arrivare fino a voi? Puoi direttamente scrivere su info a Gelify e noi valutiamo il pitch molto volentieri. Ottimo, perfetto. Grazie mille allora ancora a Fabio Nalucci e Andrea Craviotto di Gelify. Grazie per essere stati con noi quest'oggi. Grazie a voi, a presto. E dagli studi di Radio 24, Radio Next chiude questa prima puntata delle quattro che ci accompagneranno alle meritate vacanze di fine luglio. Da parte di Pepe Moder un saluto a tutti quanti. Come sempre, la nostra mail è sempre aperta per i vostri suggerimenti. Ci vediamo la prossima settimana 13:45 domenica su Radio 24.